make sure you are comfortable. Quindi assicuratevi di essere comodi. And what's important is the spine. La cosa importante è la colonna vertebrale. It ought to have its natural curvature. Dovrebbe avere la sua curvatura naturale. And if you actually feel more comfortable sitting on a chair, that is better. Se vi sentite più comodi su una sedia, allora quella sarebbe la cosa migliore. Yeah. You can become fully liberated sitting on a chair. Potete anche raggiungere la piena illuminazione su una sedia. Lifting up through the top of the head. Quindi sollevate, raddrizzatevi dalla sommità del capo. Eyes gently closed. Gli occhi dolcemente chiusi. The jaw relaxed, lips together, teeth apart. La mandibola rilassata, le labbra unite e i denti separati. If there's tension, shake the jaw back. Do something. Se sentite tensione, scuotete un po' la mandibola, insomma, fate qualcosa. Shoulders, give them a squeeze if you feel tension there. Se sentite tensione nelle spalle, stringetele un pochino, spezzatele e poi rilassate. And bring your attention to the sensations caused by the breath. E portate la vostra attenzione alle sensazioni causate dal respiro. In this particular method, there is an advantage in observing, feeling the breath at the abdomen. In questo particolare metodo c'è un vantaggio nel sentire il respiro a livello all'altezza dell'addome. Or if that is not obvious in the stomach. Oppure se questo non è così evidente, allora potete provare a sentirlo nello stomaco. Or you might have a shallow breath, so you feel it in the chest. Potreste avere un respiro corto e quindi lo sentirete nel petto. If you are already established at the nostrils, then you can choose to stay there. Se invece avete già un oggetto stabile all'altezza delle narici, lo sentite lì, allora potete scegliere di rimanere lì. And we can use a little noting word to keep the intellect occupied. Possiamo usare una piccola parola, un'etichetta mentale per tenere l'intelletto occupato. As the abdomen rises, use the word rising. Man mano che si alza l'addome, utilizzate la parola alzarsi. Fall, as it falls, falling. E quando si abbassa, abbassarsi. The noting word is concurrent with the rising and falling of the abdomen. Quindi l'etichetta mentale è simultanea al movimento dell'alzarsi e dell'abbassarsi dell'addome. If you note rising before the breath begins, you'll have the impression of controlling the breath. Quindi se usate l'etichetta alzarsi prima dell'inizio del respiro, avrete la percezione che state controllando il respiro. If you are watching the breath of the nostrils, in, out, out. Se invece osservate il respiro all'altezza delle narici, potete usare la parola dentro, fuori, o inspirare, espirare. So, bring your attention gently onto the sensations caused by the breath. Quindi portate la vostra attenzione delicatamente sulle sensazioni causate dal respiro. the mind is wandering, really recognize and acknowledge what it's doing. Se la mente divaga, cercate di riconoscere, cogliere quello che sta facendo. Thinking, thinking, worrying, worrying, dreaming, dreaming, and so on. Pensare, pensare, o preoccuparsi, preoccuparsi, o sognare, sognare, e così via. And then gently turn your attention away and bring yourself back to the breath. Poi delicatamente riportate la vostra attenzione al respiro. When you come back to the breath, make a determination to stay there. Quando tornate al respiro, prendetevi l'impegno di restare lì. Rising, falling. Alzarsi, abbassarsi. The mind is wandering, recognize, acknowledge what is happening and bring the attention gently back to the breath. Se la mente divaga, riconoscete quello che sta facendo e poi delicatamente riportate l'attenzione al respiro. If you are beginning to feel dull-minded or tired, lift the spine, open the eyes a little, you can even stand up. Se cominciate a sentirvi un po' la testa un po' intorpidita, un po' stanca, allora raddrizzate la schiena, aprite gli occhi e potete anche alzarvi in piedi. Feeling the sensations caused by the breath. Quindi si tratta di sentire le sensazioni causate dal respiro. Rising, falling. L'alzarsi, abbassarsi. the mind is wandering, recognize, acknowledge what it's doing, and bring that attention gently back to the breath. Make a determination to stay there. Se la mente divaga, riportatela delicatamente al respiro e prendete l'impegno con voi stessi di mantenere l'attenzione lì. Don't forget to note, acknowledge what it is. E riconoscete quello che sta facendo. Feeling sleepy or tired, lift the spine. You can open the eyes a little, let the light in. You can even stand up. Se invece vi sentite sinceramente un po' annebbiata o stanca, allora raddrizzate la spina dorsale, potete aprire gli occhi, lasciare entrare un po' di luce o anche alzarvi in piedi. Resting the thinking mind onto the sensations caused by the breath. Quindi come riposare la mente pensante sulle sensazioni causate dal respiro. Resting the heart on the sensations caused by the breath. Far riposare il cuore sulle sensazioni causate dal respiro. Feeling the breath as something that calms us. Quindi sentire il respiro come qualcosa che ci calma. Rising, falling. Alzarsi, abbassarsi. If the mind is wandering, be diligent and really acknowledge what it's doing, and then bring the attention gently back to the breath. Quindi se la mente divaga, siate molto diligenti e cercate di riconoscere quello che sta facendo, poi delicatamente riportatela al respiro. Make a determination to stay there. Prendetevi l'impegno di restare lì. Feeling sleepy or tired, make the effort. Se vi sentite stanchi o sonnati, fate lo sforzo. Hopefully now you feel a little more calm, a little more steady in attention. Adesso probabilmente vi sentite un po' più calmi, un po' più fermi nella vostra attenzione. See if you can focus in on the breath to catch the very beginning of the in-breath and stay with it to the very end. Adesso vedete se riuscite a focalizzarvi sul respiro e a cogliere l'inizio del respiro e rimanere insieme al respiro fino alla sua fine. The very beginning of the out-breath and to feel it until the very end. Quindi prima con l'inspirazione e poi lo stesso con l'espirazione, dall'inizio dell'espirazione fino alla fine. Like throwing a ball up in the air, it rises, stops for a moment, and then falls. È come lanciare una palla in aria. Va su, poi rimane su per un qualche istante, poi di nuovo cade. If when you do that you feel tense, observe, feel the tension. Se mentre lo fate vi sentite tesi, allora osservate e percepite questa tensione. And then return to the breath. Poi tornate al respiro. Rising, falling. Alzarsi, abbassarsi. So remember, from now on, every time the mind wanders, we recognize, acknowledge what it's doing, and bring ourselves again back to the breath. Quindi ricordate, da adesso in poi, ogni volta che la mente divaga, noi la riconosciamo, riconosciamo quello che sta facendo, e poi riportiamo l'attenzione al respiro. With dullness and lethargy, just keep making the effort to stay awake. Quindi se c'è invece sonnolenza o un senso di pigrizia o letargia, allora dobbiamo cercare di rinnovare lo sforzo. So now we can open up to whatever draws the attention. Quindi adesso noi possiamo aprirci a qualunque cosa che attiri l'attenzione. It may be a sound. Potrebbe essere un suono. Like the chirping of the bird. Come il cinguettio dell'uccello. We're not interested in the bird, we're interested in the process of hearing. A noi non interessa l'uccello, ma ci interessa il processo dell'udire. It may be a sensation in the body, pleasant or unpleasant. Oppure potrebbe essere una sensazione nel corpo, piacevole o spiacevole. If it draws our attention, we go to it and feel it. Se attira la nostra attenzione, allora noi la seguiamo e cerchiamo di percepire, di sentire. It may be a feeling in the body from an emotional state. Potrebbe essere una sensazione nel corpo che deriva da uno stato emotivo. Pleasant or unpleasant. Che potrebbe essere piacevole o spiacevole. If it draws the attention, we go to it and feel it. Se questo attira la nostra attenzione, allora noi lo seguiamo e cerchiamo di sentirlo. And we use a little noting, an appropriate noting word. E utilizziamo una parola, un'etichetta mentale appropriata, adatta. When we're lost, we just begin again with the breath. Se ci perdiamo, ricominciamo con il respiro. The breath is our reference point and our anchor. Il respiro è il nostro punto di riferimento e la nostra ancora. Beginning with the breath, rising, falling. Quindi ricominciamo con il respiro, l'addome che si alza e si abbassa. see how everything we're experiencing is arising and passing away. Riusciamo a vedere come qualunque cosa di cui stiamo facendo esperienza sorge e passa. We become aware of how we are reacting to things. Riusciamo a diventare più consapevoli di come reagiamo alle cose. When something is unpleasant, we tend to want to get rid of it, push it away, ignore it. Quando c'è qualcosa di spiacevole, noi tendiamo a volerlo eliminare, a spingerlo via, a ignorarlo. Can you note that? Resisting, resisting. Riuscite a notarlo? Questo resistere, resistere. How when something is pleasant, we're attracted to it and want to indulge it. Quando c'è qualcosa di piacevole, noi ne siamo attratti e vogliamo indulgere in questo, vogliamo godercela. Can you really see that and note it, indulging, indulging? Riusciamo a notarlo, a vederlo chiaramente, questo, l'indulgere, indulgere.